codessire innanzi lume il tuo servo. È grave l'affar per cui sul primo albor del giorno qui ti tragge qual piede. Tutta quest'alma pende dai labbri tuoi. Siedi, obbedisco. Il ripeterci giovi gli andati eventi. Dimmi, qual io fui, qual tu fosti. Qual tuo principio? Infine il tuo corno io nacque, tu fra gli nostri reali. Era il tuo incarco, scegliarmente, il mio, dar legge al mondo. Come al soglio salisti, tua bontà fu, cui piacque sollevarmi dal pongo, della mia povertà venne la pietà. Così al regno t'ammisi, e fui tua serva, tal t'accolsi nel letto, d'un regno non dovea tanta fede e tanto amore. Prole avemmo, una figlia, e tolta questa ti venne dalla cuna. Ed io non ebbi, oddio, notizia alcuna. Quanta? 15 volte compì dal giorno a tua carriera il sole. T'affliggesti? Voglio tuono il tuo cenno. Io fui per essa e carnefice e padre. Era tuo sangue e versarlo con te a tuo piacere. E m'ami ancora crudele. E in un amor mio non ti potrei se ancora versasse il mio. Al fine, ma qui verrà l'unica tua delizia. In sì gran tempo ti spiacqui, oltraggiai. Grazie solleppi. Di quanto feci non mi pento, il cielo testimonio mi sia. Ma pur conviene che i miei doni ritratti, il re talvolta de servire a vassalli, e se costesso per serbarne il dominio esser tiranno. Dove tu imperi ogni ragion condanno. La Tessaglia, ovvio regno, ubbidirmi ricusa, ella mi sgrida che i talami reali abbia abiliti con sposare Grisella. E non attende da boschio ove sei nata il suo monarca a chiamarma costretto sposa di regio sangue al trono al letto. La provincia vassalla tante lustre soffrive per regina ed or solo mi sdegna. Ella è gran tempo che ricalci tra il gioco. Io già sperai di stato alla ragion l'amata prore. Gli odi alquanto sopì, ma non estinse. Or che nacque Verardo, impaziente, torna all'ire m'insulta. Se Verardo sul rompe tai bei modi d'amor, dunque Verardo, oh no, Griselda mora, son moglie vera, ma sono madre ancora. Moglie già più non sei. Oh, mio re, se troppo chiedi e se troppo tardai, forse a renderti un nome a me sei caro. Il tuo voler dovea esser norma il mio affetto. Ecco, mi spoglio il diadema e lo scettro, e quella è destra che m'incinse e me diede, riverente il rito.